America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da Washington, Mario Platero. Vi ho detto che questa settimana avrei parlato con i leader politici italiani per capire, confrontare i loro rapporti con l'America, e questa idea ci è venuta anche perché c'era la visita del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano nella capitale americana. Ecco, oggi mi sembra giusto fare una pausa in questa chiacchierata con i leader politici del nostro paese per dare spazio invece a quello che poi ha ispirato queste chiacchierate, e cioè la visita stessa del Presidente. Let me begin by thanking the Italian people and President Napolitano for their extraordinary hospitality. Barack Obama e Giorgio Napolitano, il Presidente della Repubblica Italiana e il Presidente degli Stati Uniti, si incontrano fra poche ore qui a Washington, alla Casa Bianca, nell'Ufficio Ovale. È un incontro importante sotto molti punti di vista, devo dire, dal punto di vista emotivo. C'è il saluto del giovane Presidente americano e l'omaggio del giovane Presidente americano nei confronti dell'anziano capo di Stato italiano, un uomo che rappresenta dal punto di vista di Obama i valori liberal che gli sono cari, e dunque Obama ha sempre tenuto a sottolineare questo rispetto anche per la storia del personaggio Giorgio Napolitano, che ricordiamolo, ai tempi della Guerra Fredda, quando in Italia il Partito Comunista era ancora molto molto vicino a Mosca, è stato proprio Napolitano che ha cominciato ad aprire il dialogo nei confronti degli Stati Uniti e a viaggiare in America proprio per rafforzare i rapporti fra l'America e un partito che veniva visto una ventina d'anni fa ancora con molto sospetto a Washington. They came, but they were religious. They were hardworking, they were poor, and when they came to America, they were very patriotic. In agenda ci sono tematiche molto concrete. Il presidente Giorgio Napolitano in questo viaggio a Washington ha incontrato ieri anche Nancy Pelosi, il capo della maggioranza democratica alla Camera, l'aveva già incontrata in precedenza. Discussioni naturalmente sul futuro della politica italiana, e di questo ne siamo certi, Barack Obama e Giorgio Napolitano ne parleranno a lungo durante il loro incontro di oggi, e da quel che sentiamo il presidente rassicurerà Obama sul fatto che qualunque sarà la coalizione vincente dovrebbero esserci le condizioni per avere poi un governo stabile. Ecco, importante questo concetto della stabilità, perché da parte della Casa Bianca proprio ieri c'è stata una dichiarazione piuttosto interessante, cioè l'auspicio da parte di Caitlin Hayden, che è una dei portavoce del Consiglio di Sicurezza Nazionale, che segue più direttamente i rapporti del giorno per giorno con l'Italia, un auspicio, vi dicevo, che il prossimo governo italiano possa puntare molto o tutto addirittura sulla crescita economica. Del resto lo stesso tema lo aveva sollevato quando lo abbiamo incontrato a New York, invece qualche giorno fa, l'ambasciatore americano a Roma David Thorne, auspicando anche lui una stabilità per il prossimo governo. Perché? Perché, diceva Thorne, ci sono molte cose ancora che si devono fare dal punto di vista delle riforme. Guai se l'Italia molla il sentiero delle riforme, riforme strutturali, riforme della burocrazia, riforme della giustizia. Ecco, è un impegno che riguarda non un colore politico, diceva l'ambasciatore americano, ma che riguarda il sistema Italia. Ed era proprio per questo, sottolineava Thorne, che molte aziende sono poi sospettose nel decidere un investimento nel nostro paese, perché ritengono che ci siano ancora troppi elementi di incertezza che vanno in un modo o nell'altro corrette. These examples and many other I could have mentioned show why Europe continues not just to be America's largest trading partner but our most important ally. Joe Biden, una colazione alla Blair House, ve lo ricordo, la Blair House è questa casa, questo gruppo di case davanti alla Casa Bianca, che ospita in genere i dignitari stranieri che sono in visita di Stato. Ecco, è stato Barack Obama stesso che ha voluto fare un'eccezione. Giorgio Napolitano non è in America in visita di Stato, è in una semplice visita di lavoro, però proprio per il fatto che Napolitano uscirà dalla scena politica fra qualche mese e per il rapporto forte che si è instaurato fra questi due uomini di Stato, che Barack Obama ha voluto che invece Napolitano e la sua delegazione fossero ospiti proprio a Blair House. Ieri sera c'è stata una cena offerta dal presidente Napolitano sempre alla Blair House, e ieri pomeriggio il nostro presidente è poi andato alla National Gallery a Washington, dove ha visto la celebre scultura di Michelangelo e David Apollo in prestito appunto alla National Gallery in occasione dell'anno della cultura italiana degli Stati Uniti, quindi un omaggio diretto del presidente che ha dato il suo appoggio a questa iniziativa che durerà nel corso del 2013. Ecco, ma torno al punto chiave, all'incontro di oggi alla Casa Bianca, all'incontro nell'Ufficio Ovale. Io credo che le posizioni coincidano, ho chiacchierato un po' con alcune delle persone al seguito del presidente Napolitano e questi messaggi forti che vengono dagli Stati Uniti, perché l'Italia continui con le sue riforme strutturali, perché l'Italia comincia ad aggiungere un'aggressiva politica per la crescita, sono condivise nella delegazione italiana, credo che le posizioni coincidano. C'è infatti un messaggio forte che il presidente della Repubblica Napolitano porta oggi a Washington in questo suo viaggio di commiato dall'America, ed è un doppio messaggio sulla crescita. È la crescita dell'Europa, Europa come Unione. Ricordiamolo, Giorgio Napolitano è un fervente europeista, un'Europa che è fuori dal tunnel e fuori da una pericolosa crisi finanziaria che sembrava potesse addirittura minacciare la tenuta della moneta unica. E poi l'altra crescita, la crescita economica. Le due cose sono strettamente legate. Sul piano simbolico non poteva esserci occasione migliore per accompagnare questa visita di Napolitano dell'annuncio congiunto di un paio di giorni fa che ha lanciato negoziati per costruire un'area di libero scambio fra Europa e Stati Uniti, un'area che diventerà per giro d'affari la più grande del mondo. Il negoziato avverrà ovviamente a livello europeo, non a livello di singoli stati, e sia le dichiarazioni del presidente Barack Obama che quelle di Herman Van Rompuy davano una giustificazione di fondo per definire l'importanza del lancio di questa iniziativa. Lo abbiamo sentito da Obama nel discorso dello Stato dell'Unione: l'apertura dei confini, l'aumento dei commerci hanno sempre una ricaduta certa, contribuiscono ad aumentare la crescita economica. Ma ci tengo, visto che domani non ci sentiremo e quindi non potrò darvi un resoconto diretto di quello che succederà oggi alla Casa Bianca, a darvi comunque delle anticipazioni, perché proprio parlando con funzionari alla Casa Bianca mi è stato detto che l'opportunità centrale oggi non è veramente di parlare di politica. Il presidente Obama non vuole intromettersi nelle questioni di politica interna italiana, né il presidente Napolitano vuole a sua volta dare l'impressione che qui in America, per cercare di influire in qualche modo l'esito del voto in Italia. No, la ragione è anche, soprattutto, ci dicono alla Casa Bianca, un'opportunità per il presidente Obama di ringraziare il presidente Napolitano per tutto quello che ha fatto. Ricordiamo, il presidente Napolitano è stato uno degli artefici del cambiamento a un certo punto della compagine di governo per poter procedere verso quel difficile sentiero di risanamento economico e finanziario che però ha rimesso l'Italia in carreggiata, ha consentito di rassicurare la Germania e di poter poi dare la possibilità a Mario Draghi di partire con una manovra di politica monetaria accomodante che ha riportato la tranquillità sui mercati e soprattutto ridotto il terribile spread, un termine a cui tempo fa ci eravamo abituati pensando al peggio. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Restiamo in tematica, canzone d'amore. San Valentino è passato, ma abbiamo una coda e quindi per qualche giorno ancora le dedichiamo alle grandi canzoni d'amore americane. Oggi una delle più belle, secondo me, I Can't Stop Loving You, Ray Charles. If she'll make me blue, they say that time heals a broken heart, but time has to steal since we've been apart. Yeah. I can't stop loving. Da Washington è tutto. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going.